que fermarte van, so che tu parti domani. Non darti pena per me, ma un dono sol vorrei ancor da te. Amore, amore, portami tante rose, stasera ancora, tu dimmi tante cose. Soffoccherò il mio cuore, come pretendi tu, potrai mentire ancora, non piangerò mai più. Amore, amore, non piangerò mai più. Mai sarà di me, non domandarlo perché, come una stella cadrò e forse un dì nel nulla tornerò. Stringerò sul cuore come stringessi te, se non ho più il tuo amore, che mai sarà di me? Amore, amore, che mai sarà di me? Portami tante rose.